24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:21 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 anche oggi con il nostro Pietro Lacorte che ci assisterà in regia. E il tema del nostro sondaggio, subito, parliamo ancora di rifiuti a Napoli. Domani dovrebbe arrivare un decreto del governo. Quello che vi chiediamo è: secondo voi ci vuole l'appoggio, la solidarietà di tutta l'Italia per la vicenda rifiuti a Napoli oppure no? 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21 minuti. Voglio salutare il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, del Popolo della Libertà. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, Milano è non l'ultima, per la verità, delle province che ha deciso di aumentare, questo prevede, è previsto dai decreti del federalismo fiscale, l'RC auto al massimale del 16%. È vero che vuol dire pagare, non so, 15 euro, 20 euro per i consumatori in più all'anno, però, insomma, che segnale è, presidente? Era davvero necessario aumentare questa tassa? Diciamo che grosso modo sono quasi 40 le province che hanno deciso di seguire questa strada. E la ragione è molto semplice, io parlo della provincia di Milano, le ragioni sono analoghe anche per le altre province. Vi è stato un calo del gettito per la provincia dovuta al minor gettito conseguente alla caduta del mercato dell'auto. Noi proprio sull'aliquota dell'IPT abbiamo gran parte delle nostre entrate, nel nostro caso abbiamo 9 milioni in meno quest'anno nel 2011. Sì. Oltretutto abbiamo avuto un'esplosione dei mutui flessibili cosiddetti, cioè mutui che sono stati accesi dalla precedente amministrazione e che per 2 anni non hanno generato né corrispondenza di interessi né di capitale, invece adesso ci danno un costo maggiore di 20 milioni. Quando lei dice cos'è il costo medio per la famiglia, sì, anche se sì. Tutto naturalmente pesa di questi tempi, sinceramente. Diciamo che andiamo dai 10-12 euro l'anno fino ai 18 però, euro l'anno. Presidente, vuol anche dire un euro e due, un euro e tre, un euro e quattro al mese. Lo stesso ministro Sacconi, proprio parlando alle province, insieme, come istituzione, ha detto: cercate magari di razionalizzare invece di dare questo segnale, che è un segnale, lei dice, anche minimo nella quantità degli euro che si devono pagare. Guardi, razionalizzare è giusto, devo dire che le faccio un esempio sui tagli che abbiamo fatto e sulla razionalizzazione di spesa. Soltanto cambiando la centrale di acquisti, passando dalla Consip alla centrale regionale della Lombardia, sull'energia elettrica abbiamo risparmiato 1,2 milioni. Per quanto riguarda ad esempio le cosiddette auto di servizio, auto blu, ma non solo blu, sono le auto di servizio, sì, sì. Abbiamo fatto in 2 anni scendere da 170 a 70 le auto, abbiamo eliminato centinaia di telefonini perché erano francamente non troppi. Necessari. Pensiamo anche a dove andremo a utilizzare queste risorse, cose che se non avessimo dato questo incremento non avremmo potuto riconoscere. Senta, tra l'altro, visto che si parla di manovra, eccetera, non è che si ritorna anche l'annosa questione del abolire le province, no? Lei dice le province Guardi, servono. Innanzitutto, se fosse anche l'abolizione delle province per quanto riguarda le città metropolitane, quindi un'area come Milano, questo poi dopo non verrebbe fatto perché vi sarebbe appunto l'area metropolitana, cosa oltretutto auspicabile. Però non è che se anche aboliamo le province, la manutenzione delle strade, l'eliminazione dell'amianto dalle scuole, il servizio di accompagnamento per i disabili non verrebbe fatto, no? Quindi stiamo parlando comunque di una non risparmio, anche perché questo tipo di spese in una realtà ad esempio come la Lombardia, sono quasi 10 milioni di abitanti, un peso come il Belgio per intenderci, verrebbe affidato a chi? ai comuni con una frazione continua di interventi, di gare d'appalto. E alle regioni. E sicuramente sarebbe un'eliminazione dei costi, della politica, cioè dell'istituzione provinciale. Ma ragazzi, stiamo parlando di un costo che è quello del gettone dei, dei consiglieri, sì, che è veramente risibile, ridicolo. Quindi cioè, non prendiamo in giro la gente dicendo che questo sarebbe un risparmio. Proprio questo frazionamento sui comuni o una proliferazione poi di sedi delle regioni su una realtà grande come la Lombardia sarebbe probabilmente un aumento. Sì. Mi permetta però di dire dove andremo a usare questi 8 milioni che ricaviamo da questo aumento. Guardi, disabili sensoriali e il contributo all'Istituto dei Ciechi che noi da sempre diamo assorbe circa 1.650.000. Gli asili nido che sono stati realizzati dai comuni della provincia rappresentano un costo di 3.700.000, 1.700.000 lo spostiamo all'anno prossimo, 2.000.000 quest'anno. Se non riconoscessimo queste risorse ai comuni, i comuni che già sono in estrema difficoltà non riuscirebbero a pagare le imprese che hanno lavorato e questo genererebbe disoccupazione e dissesto finanziario nelle imprese. Senta, Presidente, venerdì... Sicurezza stradale poi è l'ultimo tema perché sennò le strade, la gestione muore, delle strade. La gente muore sulle Senta, strade, venerdì, Presidente, ci sono gli stati generali del Popolo della Libertà, lei fa parte del Popolo della Libertà, insomma, ci vogliono le primarie, perché questo è il tema, secondo lei, le primarie del Popolo? Guardi, io credo che sia assolutamente necessario che noi ritorniamo a immergerci nel rapporto con il cittadino, quindi da un lato sicuramente i congressi all'interno del partito e quindi la libera espressione di chi partecipa alla vita del partito, dall'altro trovo benefico il fatto di coinvolgere anche gli elettori attraverso tutte le primarie, tutto che va regolato ma che deve ridare quella continuità di rapporto con il cittadino che forse un po' abbiamo perso. Perché no? L'ultima domanda, ma lei sta con Berlusconi o Tremonti, visto che li conosce? Questa diatriba, no? Guardi, non è questione di stare con Berlusconi o con Tremonti, bisogna lavorare insieme tutti i membri di governo per definire una politica economica che in questo momento è molto difficile. Lei ha visto la speculazione sulle nostre banche venerdì scorso, sono azioni a livello internazionale e solo la coesione di tutti i soggetti, ma anche la coesione tra le banche centrali europee, può dare risposta a fenomeni di questo tipo. Non è un momento facile. Sta con Tremonti, insomma. Se parla di speculazione, rischia sta più con Tremonti, cioè della linea attenzione. Ecco. Guardi, io credo che Tremonti abbia ben operato nel mettere in sicurezza il sistema del risparmio, ma non si può vivere soltanto di tagli, bisogna anche investire. Quindi da questo punto di vista c'è molto da riflettere. Va bene, intanto la ringrazio, Presidente, per essere stato con noi. Grazie a lei. Guido Podestà, buona giornata. Presidente della provincia di Milano, del Popolo della Libertà, e noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, poi parliamo sì di rifiuti a Napoli. Ci torniamo perché? Beh, la domanda che vi poniamo, cari ascoltatori, 800240024 per intervenire in diretta, è la domanda a tutti i cittadini italiani. Allora, ma ci vuole questa solidarietà a Napoli per i rifiuti da accogliere, da sparpagliare, da distribuire in Italia per l'ennesima volta? Qualcuno dice a Napoli, dicono aspettiamo questo decreto del governo domani, altrimenti la situazione è critica. La Lega si mette di traverso, dice non ne possiamo più di questa situazione, si arrangino. Allora, ci vuole questa solidarietà oppure no? Attenzione, perché tra l'altro l'Unione Europea ha detto per la situazione di Napoli rischiate nuove infrazioni, cioè nuove multe da pagare. Alle 8:35 minuti, allora siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi, parliamo di rifiuti. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E la domanda che vogliamo porre ai nostri ascoltatori è questa: ci vuole allora questa solidarietà sulla questione dei rifiuti con Napoli? Chi lo sa? Ci vuole questa solidarietà o no? Intanto lo voglio chiedere a Oscar Giannino. L'abbiamo ingaggiato così. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Ma solidarietà, com'è la domanda? Per Napoli? Ma dai, su, bambina, Napoli. Ma no, ma dai, cioè, per favore. La terza grande, più grande città d'Italia. Ho capito, sono reiterati nell'errore. Allora, ti leggo quello che... te la ricordi Antonella Migliaccio, la nostra ex collega come no, certo Napoli? Che sì. Ieri, quando ha saputo che parlavamo di questo, mi ha scritto una mail dicendo: guarda, la mia amica e compagna di tutte le scuole ha ritrovato il suo diario. Della monnezza, della prima media, della monnezza, l'altro. Tema: disegna il tuo quartiere, svolgimento, un enorme cumulo di monnezza. Era il 1989. No, ma il problema è che l'ha trovato in un cumulo mai rimosso dall'89. L'ha trovato. No, parliamo di questo tema molto molto serio, perché l'Unione Europea minaccia nuove sanzioni. Lo facciamo con il presidente della provincia di Salerno e anche onorevole del Popolo della Libertà, Edmondo Cirielli. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Saluto anche il sindaco di Treviso, segretario della Lega Nord per il Veneto, Giampaolo Gobbo. Buongiorno Gobbo. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, qui la questione è che la Lega si mette di traverso, così pare. Ieri Bossi ha detto: abbiamo parlato del decreto domani dei rifiuti, lasciamo stare, e ha chiuso la questione con un gesto eloquente. Gobbo, la Lega si mette di traverso, sì o no, e perché? Fa bene? Non capisco di traverso a cosa. A trasferire i rifiuti. Ma vede, ecco, già qua ci capiamo, cerchiamo di capire. Noi, ad esempio, parlo della mia provincia, parlo di Treviso, già da 15 anni abbiamo dovuto stringere i tempi e praticamente cercare di chiudere tutte quelle discariche che avevamo, e noi ne abbiamo tantissime. Siamo a livello italiano il territorio che ha avuto più discariche, poi ovviamente queste sono ancora ovviamente attive, nel senso che sono già tutte quante praticamente piene, e non abbiamo assolutamente nemmeno più la possibilità di questo. Ma nella filosofia delle cose, io credo che al di là di quel quaderno, di quella ragazzina a quel tempo, io credo che oramai si abbia già dato e più che dato. Ma voglio ricordare, visto che abbiamo anche il presidente della provincia di Salerno, voglio ricordare anche un altro dato, che la città di Salerno ha già, credo sia già arrivata a oltre il 55% di raccolta differenziata. Guardi che ieri qui ai nostri microfoni il sindaco De Magistris ha promesso che sicuramente entro fine anno Napoli arriverà al 70%. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, mio commento. Boom, boom, boom, boom, boom. Questo no, è Oscar Giannino, Giannino, non è... vabbè. Lancio di mongolfiere dal maschio angioino proprio. Ecco, io dico appunto che di promesse ce ne sono state fatte, abbiamo avuto, cioè l'Italia ha avuto un commissario con pieni poteri per 12 anni, signor Bassolino. Se fosse successo al nord poi quello che succede a Napoli, insomma, lei dice abbiamo già dato la posizione, la posizione è molto chiara. Sentiamo, sentiamo onorevole Cirielli, anche presidente della provincia di Salerno, le chiedo perché ci spieghi un po' la situazione in Parlamento, che mi sembra dal suo punto di vista e altri parlamentari abbastanza ostili e abbastanza arrabbiati con la posizione della Lega. Intanto la situazione dei rifiuti a Napoli è in napoletana o è campana o è italiana, come si vuole? No, la situazione è squisitamente napoletana, insomma, cerco di chiarirmi. Io potrei dire esattamente come il sindaco Gobbo: abbiamo già dato. La provincia di Salerno negli ultimi 15 anni ha aperto 3 discariche che sono state saturate dal 90% dei rifiuti provenienti da Napoli città. Noi siamo la quarta provincia d'Italia, non la città, perché la città pesa 100.000 abitanti su 1.200.000, ma tutta la provincia è la quarta in Italia per raccolta differenziata. Noi abbiamo avviato la costruzione di un termovalorizzatore, mentre a Napoli l'ha dovuto fare il governo con la forza, e ciò nonostante però rischiamo di trovarci anche noi nella medesima situazione. Il problema di fondo è che ha ragione il sindaco Gobbo: non si possono scaricare sugli altri territori le incapacità. E il governo Berlusconi, che pure ha fatto tanto per la Campania, perché ha costruito con la forza il termovalorizzatore di Acerra, altrimenti saremmo in un'emergenza stratosferica, non ce lo dimentichiamo, però poi non ha avuto il coraggio di cacciare il sindaco Iervolino, come pure la legge diceva, perché non raggiungeva la raccolta differenziata. Il problema della Campania è che Napoli non ha mai fatto la raccolta differenziata e quindi ha saturato tutte le discariche di Benevento, di Avellino, di Caserta, di Napoli, e attualmente sta versando ancora a Caserta. Ma secondo lei la Lega fa bene a mettersi attraverso questo decreto? La Lega fa bene a porre il problema, però è evidente che lo pone in maniera sbagliata, perché nel momento in cui falliscono gli enti locali, e sono stati i 15 anni di governo di centrosinistra perché non hanno voluto costruire i termovalorizzatori, il popolo vota il centrodestra, il governo Berlusconi, per chiedere una mano, per chiedere un cambio, cambia il governo regionale e vota Caldoro, è evidente che ci vuole un impegno straordinario. Se io come provincia, che ho fatto 3 discariche, sto facendo il termovalorizzatore, sono la quarta d'Italia per raccolta differenziata, siamo quasi al 60, tutta la provincia, mi trovo con i rifiuti in mezzo alla strada perché oggi non ho più le discariche perché me le ha chiuse Napoli di fatto. Sì. Il termovalorizzatore ci vogliono degli anni, 2 anni per costruirlo, io in 1 anno l'ho avviato la costruzione, gli altri in 15 non l'hanno fatto e mi trovo i rifiuti in mezzo alla strada, è evidente che c'è qualcosa problema. Che non va, e allora la Lega pone un problema giusto in maniera sbagliata, perché il governo deve risolvere l'emergenza, dare il tempo di costruire i termovalorizzatori, a questo punto aprire con la forza una discarica a Napoli, perché i napoletani non possono pensare, non fanno la raccolta differenziata, non aprono discariche, non vogliono il termovalorizzatore, non vogliono niente, allora... Però ma questo non lo vedremo. No, ma certo, questo lo vedremo domani. Oscar Giannini, io vorrei capire: domani il governo sarà tutto assorbito su questa cosa della manovra, di cui parlerai anche tu alle 9, che è la cosa più importante, 43-47 miliardi, insomma. Oppure, e quindi insomma, dobbiamo stare al Bossi che dice per carità, o quel per carità cosa vuol dire? Come dire, l'abbiamo mandata giù, ci sarà un decreto rifiuti, la spazzatura verrà trasportata. E poi perché questo esordio? Napoli, aiutare Napoli. Ma io no, l'esordio aiutare Napoli, perdona, è il fallimento della promessa di De Magistris, che ricordiamolo aveva con i suoi elettori annunciato che lui in massimo in 5 giorni non risolveva il problema. Ovviamente era una promessa inattuabile. Anche su questo gli era detto, se non si metteva di traverso Caivano, ce ne mettevamo. Io sono 4. Contrario all'idea di promesse inattuabili di fronte a guai di quelle proporzioni che derivano da decenni di responsabilità di chi ha governato. Decenni. Allora, detto questo, Bossi fa bene, secondo me, a dire quello che dice, ma non perché si mette per traverso, perché io non aderisco poi a questa specie di ritratto quotidiano di una politica dedotta anfiteatro Flavio, perché fa notare col suo atteggiamento corrosivo che sul problema di Napoli, non della Campania, di Napoli, perché hanno ragione da Salerno a dire Napoli, c'è una questione che oramai è un cancro risolto da decenni e forze locali, quando io parlo di forze anche non trasparenti, come quelle che sono all'opera nelle piazze e nelle città, ma li filmano tutti i telegiornali, quindi è oramai di dominio pubblico. Quando ci sono forze così poco trasparenti che fanno di questa situazione, del cancro quotidiano, una specie di arma di ricatto per altre cose, Bossi fa bene a dire, guardate, quella oramai è un'emergenza indicibile. Purtroppo anche il governo ha perso la faccia su questo. Questo è il problema. Cioè, chi è che c'ha più la faccia, la credibilità nuova per affrontare questa faccenda? De Magistris l'ha persa in 1 mese, il governo l'ha persa negli ultimi 3 anni. A me dispiace dirlo, ma è così. Se noi andiamo a vedere gli obblighi delle province a farsi carico e delle regioni a farsi carico, troviamo che le impugnative contro sono state fatte da responsabili amministrativi locali, tanto del centro-sinistra che del centro-destra contro Napoli. Sì, quindi l'ostilità c'è anche all'interno della regione, non solo. Quindi, è una specie di l'esercito, l'abbiamo già usato, non serve a niente. Vabbè, però stai dicendo un panorama nel quale non c'è una via d'uscita. No, ce n'è una, ma io non voglio dire quella. No, diccela. No. E diccela. No, adesso ce la devi dire, non puoi lanciare il sasso. Perché non la ricetta di Oscar Giannino. Una persona poco seria. Ma no. Ma io penso che dell'emergenza Napoli, dai rifiuti e tutto il resto, ce ne accorgeremo solo, lo dico seriamente, quando si risveglierà il Vesuvio, capiremo che lì non c'è legalità più da nessuna parte. Per le costruzioni. Tanto più sarà intenso e violento il risveglio del Vesuvio, quanto più forse rifonderemo lo spirito civile della città. Ma non intendo dire per le vittime e i danni, che visto che il Vesuvio però ci abitua, per chi ne ha studiato, a eruzioni esplosive tendono a essere di una certa importanza. Sì. Io ricordo a tutti che nella media storica statistica siamo già fuori, quindi Vesuvio potrebbe farci presto la sorpresa, e io spero di no, però io penso che per rifondare lo spirito e la legalità, la compliance, come si chiama in termini britannici, alle norme di quella città, ci vuole questo. Ci vuole, ritualmente nella storia di quella città c'è sempre voluto, e temo che ci risiamo, è perché anche l'emergenza rifiuti è questo, è l'anomia totale, l'impossibilità di porre una qualunque norma che vale in qualunque città italiana come norma rispettata. Ma com'è possibile? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Registrato che il 62% dei nostri ascoltatori però dice no, non ci vuole, non ci vorrebbe questa solidarietà. Voglio sentire per la questione rifiuti, e registrato anche il fatto che quello che ha detto Oscar Giannino qualche polemica la susciterà, ma no, ma in maniera hai argomentato la questione, ma del Vesuvio, come la hai ginestra di Leopardi, lo sterminator Vesuvio. Ruggero da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Posso andare? Sì, certo, in diretta. Sì. Ecco, guardi, io sono d'accordissimo con Giannino. È ora di finirla veramente, ma faccio addirittura un appello a Gobbo, visto che rappresenta una provincia limitrofa alla nostra, in cui la Lega è ancora troppo morbida, secondo me. Cioè, stiamo diventando la barzelletta del mondo per merito di questo Sud, che oramai è dal 1866, ci sta... questo maniera... Sud lei come lo identifica? Napoli? Questo Sud? No, non solo. Poi, il Sud in generale. Anzi, ne approfitto anche per il fatto che a questo punto ci siamo accorti che la mafia, la camorra, l'andrangheta ci ha invaso, ci ha infettato, perché questo purtroppo è il termine corretto da dire. Sì. Allora, la vogliamo questa Italia unita, sì o no? Perché poi è facile parlare dei 150 anni e fare... Lei ci sta dicendo che lei è un secessionista, Ruggero? Ma io sono un veneto sicuramente ed orgogliosissimo della mia identità, anche culturale. Poi, se dipende dal resto degli italiani, fammi sentire anche orgoglioso di essere italiano autonomo. In questo momento sono ultra secessionista. Va bene, comunque lei dice è una vicenda indecorosa, la questione dei rifiuti. Grazie Ruggero. Pierluigi da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Oh, grazie per avermi richiamato. Sì, grazie. Io sono invece dell'opposto parere, cioè sarei proprio a favore in questo momento, visto che è un'emergenza negli ultimi 2 anni rispetto agli anni precedenti, di dare una soluzione. Nel nord Italia abbiamo fiorfiore di impianti di trattamento dei rifiuti, CDR, impianti di termovalorizzazione, però dico, ogni giorno a Napoli vengono 3.000 tonnellate in più che non si riescono a smaltire, e cominciamo a resettare tutto, partire da zero e poi cominciare a fare una politica di raccolta differenziata senza arrivare al 70%, che è una grossa sparata, ma è tecnicamente impossibile in 6 mesi entro arrivare. Però quello, ci sono dei termini, 6 mesi scadono entro fine anno, e basta aspettare. Io gli ho chiesto ieri a De Magistris e lui mi fa, beh certo, se non si mettono di traverso le forze come si sono messe di traverso impedendomi di svuotare Napoli in questa situazione in 5 giorni, capisci Oscar? Dice, ce l'avrei fatta in 4, poi se il sindaco di Caivano dice firmo la discarica, poi dopo esce dalla prefettura e dice blocco tutto, è chiaro che io a quelle condizioni cambiate non posso più. Sentiamo Alessandro da Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Io sono un vostro ascoltatore tutte le mattine, e in particolare seguo anche Oscar Giannino nelle sue trasmissioni, sono sempre puntuale. Bene. Sinceramente l'unica cosa che stamattina mi è dispiaciuta sentire dalla sua bocca, che è la soluzione del problema della spazzatura a Napoli e il Vesuvio. Questa sinceramente è la sua, penso che forse faceva meglio a non dirla. Io lo sapevo che ci sarebbero state polemiche, la sua lettura è un po' tranchant, però Oscar rispondi ad Alessandro. Io posso capire benissimo, però il problema è che chi mi ascolta dovrebbe capire, io ho madre napoletana, di tutto posso essere immaginato, tranne che di non amare la città che ha dato in Natale a mia madre. Il problema è che da quando sono piccolo mi confronto però problematicamente con il perenne, sistematico, ripiombare, o meglio, con l'impossibilità per Napoli di uscire dai suoi guai endemici, che sono quelli di un tessuto urbano infettato da malavita, illegalità urbana, illegalità dei... Non sto dicendo che il Far West per colpa di chi ci abita, ma lo vogliamo ammettere che la conurbazione napoletana è, insieme alla Calabria, il maggior problema dell'illegalità italiana. E così io mi ci confronto da quando sono piccolo. Evocare la mia risposta... il Vesuvio è evocare il Vesuvio è una immagine di tragedia civile, perché Saviano altrimenti, perché domanda, perché Saviano è il personaggio numero uno dello spirito di riscatto? fatto. Allora, io questo dico, purtroppo evocare immagini forti serve non tanto a chiedere la solidarietà, perché Napoli su questo il problema se lo deve risolvere da solo, e se lo deve risolvere da solo, la mia risposta è: capisco che così siamo arrivati ai Masaniello, e lo dico con rispetto per il fenomeno che ha portato dei Magistris, ma non sono mai Masaniello nella storia napoletana il problema. Il problema è dei Magistris, solo perché ha fatto sparate, e con le sparate non si risolve quel cavolo di guaio. Vabbè, ma quello aspettiamo 6 mesi. Intanto aspettiamo, voglio rassicurare tutti, io non ho detto il Vesuvio faccia giustizia alla città e la copra di lava, dico che ci vuole qualcosa di estremo su questo è vero, infatti l'abbiamo detto, tu non hai detto forza Vesuvio e sperare, mancherebbe, però insomma evocare questa cosa, non so, sindaco Gobbo e presidente Cirielli, lei vuole seguire su questo crinale effettivamente un pochino sottile, no? che rischia di portarci in un precipizio. Mi ha fatto un attimo sorridere sentendo appunto il traffico, dove si diceva che oggi è fermo la Salerno-Reggio Calabria, è ferma, eccetera. Grande allora notizia, agganciamo quello che il signor Ruggero di Vicenza prima diceva, no, la Lega non si è assolutamente ammorbidita e i concetti sono sempre quelli e sono profondi. Ma tornando anche tecnicamente, comunque il problema è che questi sono rifiuti uguali per i quali, cioè non differenziati, per i quali anche negli smaltimenti nostri, parlando tecnicamente, bisognerebbe prima ridividerli e poi inserirli, perché non si possono assolutamente buttare, diciamo, in inceneritore così come stanno, perché non possono, con la tecnologia che c'è adesso, non possono. Vabbè, il problema è alla radice, lei dice voi tanto noi non li vogliamo neanche, quindi il problema è tolto alla radice. Sì, però ricordo anche una cosa, vede, qualche tempo fa, qualche anno fa, ad esempio parlando con un'azienda tedesca, mi dicevano che riguardo a questo, con 100 euro a tonnellata, Franco Firenze, quindi da Firenze, partendo da Firenze via ferro in ferrovia, chiedevano 100 euro, pur non, attenzione, non smistati, cioè pur così come sono. Quindi se si fosse voluto, o se per determinate situazioni ci avesse fatto, io credo che quella era una situazione... Guadagnare così, no? Io vorrei, siccome ho un minuto abbondante, presidente Cirielli, vorrei da lei, non so, anche effettivamente quello che ha detto Oscar Giannino è una cosa forte, insomma, non so. Beh, se... diciamo, insomma, se la accogliamo come una valutazione paradossale, insomma, certo, insomma... No, è Napoli che è il paradosso, presidente, Napoli è il paradosso di questo paese da decenni, non si può dire solidarietà, lo stesso parole le pronuncia il sindaco di Salerno, come lei sa. Sì, ma vabbè, il sindaco di Salerno dice tante cose, ma io voglio dire che anche il sindaco De Magistris, che vuole risolvere il problema di Napoli portando i rifiuti a Caivano, si facesse una discarica a Napoli come c'era, si facesse i centri di trasferenza a Napoli, il problema però è un altro, se in 15 anni gli enti locali non hanno fatto quello che dovevano fare per costituire il ciclo dei rifiuti e adesso c'è una nuova classe dirigente che ci sta provando, perché se avessimo il secondo termovalorizzatore che non hanno fatto quelli di prima già funzionanti a Salerno, il problema oggi non l'avremmo, non avremmo bisogno di altre discariche. Se non avessero chiuso la magistratura una serie di discariche, oggi le avremmo una serie di discariche. Il problema è che Caldoro per esempio ha avviato voglio correggere il sindaco Gobbo. La Campania ha avviato il trattamento dei rifiuti, oggi funzionano benissimo i centri di lavorazione dei rifiuti e tendenzialmente tranne Napoli c'è una buona raccolta differenziata. Il problema è che se poi non ci sono delle discariche, c'è solo un termovalorizzatore. Il problema è sempre quello. Ma l'altro costruito con la forza del Berlusconi. Però dico, adesso il governo ha la responsabilità di dare una risposta, perché altrimenti vuol dire che non è in grado di esercitare la sua. Vedremo però, presidente, come finirà domani. Intanto io devo finire ringraziando tutti, il sindaco Gobbo di Treviso, Oscar Giannino, il presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli, e in redazione Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi, con il nostro Pietro Lacorte in regia. A te, Oscar, ti do la linea, devo chiudere, sono in ritardo, tu parli di manovra, a te la linea. Ciao Vesuvio.